Per calcolare i 2 quinti di 100%, dovete dividere il 100% per 5 e moltiplicare il risultato per 2. Ma vi ricordo che a voi interessa sapere quanto resta per raggiungere il 100%, non quanto è già stato dato.